punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Breaking news. Mercati sempre più ottimisti rispetto alla crisi greca, un segnale importante lo si è visto poco fa con lo spread tra BTP e Bund che è sceso sotto i 300 punti base a 299 ai minimi dal 1° settembre dello scorso anno. Il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario è sceso al 4,81%. Giovedì intorno alle 10.20 la breaking news, dunque lo spread che torna sotto quota 300 dopo 6 mesi. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Pietro Laccorte in regia, benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale con la settimana raccontata alla radio. Ecco, un buon segno, un passaggio anche diciamo con forti elementi simbolici, questo spread che ci accompagna da mesi in una settimana tutt'altro che semplice, piena di eventi drammatiche, di complicazioni anche all'interno del governo. Una settimana dunque molto complessa per il governo Monti, sia sul fronte internazionale che interno. Su quello internazionale basterà ricordare l'India e il caso dei Marò, ormai da più di 15 giorni in stato di fermo e trasferiti in carcere. Un caso che letteralmente si attorciglia provocando malumore e critiche molto aspre anche sull'operato del Ministero degli Esteri. E naturalmente la tragica fine degli ingegneri che dopo mesi di cattività in Nigeria vengono uccisi durante un tentativo di liberazione compiuto dalle autorità nigeriane coordinato con Downing Street. Cameron non avverte Monti se non a cose fatte. Allora Franco La Molinara e Christopher McNaus vengono uccisi e il Presidente della Repubblica sbotta, dice è necessario un chiarimento sul piano politico-diplomatico, dice Napolitano parlando ai giornalisti, dice è un comportamento inspiegabile, il Foreign Office ribatte, è un comportamento spiegabilissimo per quanto doloroso. Insomma, l'attacco contro la cellula di Al-Qaeda nell'estremo nord-ovest della Nigeria allarma anche perché in questa settimana si era sperato di vedere libera Rossella Urru, la cooperante italiana rapita nel Sahara algerino il 23 ottobre del 2011. Mauritania, Mali, Niger, Nigeria del Nord, un grande corridoio. Ecco che queste storie si legano purtroppo nel segno dell'ACMI, l'Al-Qaeda del deserto del Sahara. Queste sono alcune delle nostre storie e poi c'è tutto il fronte interno, quello politico, in una settimana che registra il vero primo stop al metodo della concertazione montiana con i partiti che lo sostengono. Il segretario del PDL Alfano fa saltare l'incontro di metà settimana, quello che Monti organizza appunto con lui, con Bersani, con Casini, perché il tema previsto, TV e giustizia, crea troppi malumori. Punto e a capo. La Grecia che fa parte come non mai dei nostri pensieri in questi mesi, per l'intera settimana abbiamo seguito la vicenda, l'adesione allo swap. Lo swap, di fatto questa grande trasformazione di titoli, una trasformazione a perdere tutti per salvare un sistema. Allora, il servizio di ieri mattina a cura dell'inviato del Sole 24 Ore, sentiamolo. Il governo greco ha reso noto che la partecipazione allo scambio obbligazionario, che è il più grande della storia, raggiungerebbe il 95,7% di adesioni dopo il via libera all'attivazione delle clausole di azione collettiva che costringono tutti ad aderire. Gli obbligazionisti sotto legge greca hanno consegnato 152 miliardi di euro, pari all'85,8% del totale, e 20 miliardi sotto legislazione internazionale, pari al 69% del totale. Atene spera così di ridurre da 206 a 100 miliardi il debito in mano ai privati. Ora la parola passa all'Eurogruppo, che si riunisce in teleconferenza per dare il via libera alla prima tranche del secondo piano di aiuti da 130 miliardi di euro. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la clausola viene votata nel pomeriggio di Euro. L'Eurogruppo si riunisce prudente ma deciso a percorrere la strada indicata. Insomma, la comunicazione al termine dei lavori è che l'Eurogruppo è incoraggiato dall'adesione allo swap. Come dire, avanti con prudenza, ma avanti cercando di allontanare la Grecia e l'Europa, l'Unione, l'euro, da un salto che per molte settimane ci è parso molto simile a un vero e proprio baratro. Punto e a capo. E noi ripartiamo dalla cronaca, la cronaca drammatica che ci porta nell'estremo angolo nord-occidentale della Nigeria. I fatti nel servizio di Katia Caramelli. I rapitori di Franco La Molinara e Chris McManus stavano pensando di vendere i due ostaggi ad un gruppo più radicale che avrebbe potuto ucciderli. È per questo che il premier britannico Cameron avrebbe fatto scattare il blitz improvviso ieri in Nigeria, costato poi la vita ai due ostaggi nelle mani di un gruppo vicino ad Al-Qaeda dal maggio del 2011. Secondo il Daily Telegraph, i due sarebbero stati uccisi proprio dai rapitori con un colpo ravvicinato alla testa una volta cominciato il blitz, che ha coinvolto una quarantina di uomini delle forze speciali britanniche. Altre fonti invece dicono che ad ucciderli sarebbe stato il fuoco amico. Non è ancora chiaro inoltre perché il blitz sia scattato di giorno. Dura la reazione del premier Monti, che vuole vederci chiaro su tutta la vicenda e capire perché il nostro paese non sia stato informato prima dell'operazione. Fonti britanniche però sostengono che gli italiani erano stati informati delle eventualità di un blitz imminente. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. David Cameron, primo ministro britannico, ha spiegato gli eventi, i drammatici eventi, giovedì sera. Sentiamolo. Chris McManus, a British citizen, was taken hostage by terrorists in northern Nigeria in May 2011. He was taken hostage with his colleague, an Italian national, Franco La Molinara. Since then we have been working closely with the Nigerian authorities to try and find Chris and Ecco dunque Cameron spiega che le autorità britanniche, il Foreign Office, ha lavorato da allora, dal rapimento del maggio scorso, con le autorità nigeriane di Abuja, mentre le sue stesse parole sembrano confermare quello che è un sorprendente mancato contatto con le autorità italiane. I due uomini, lo ricordo, colleghi che condividevano lo stesso appartamento nello stato di Sokoto, tanto che un terzo loro collega riuscì a scappare durante l'assalto, erano dunque uniti fin dall'inizio in questa sventura. Eppure tra Foreign Office e Ministero degli Affari Esteri a Roma, silenzio. Ecco, ci sono state reazioni che sono arrivate addirittura dal Presidente della Repubblica, una risposta, come dire, anche abbastanza forte, per quanto rispettosa e formale, da parte del Foreign Office, che sembra indicare con un'operazione spiegabilissima che appunto si tratta di operazioni estremamente complicate, delicate, e che, basta avere un po' di memoria, spesso purtroppo non portano gli esiti sperati. Di certo l'azione anglo-nigeriana, appunto fallita a Sokoto, che peraltro è una storica sede del califfato, un luogo di culto islamico, è benzina sul fuoco dell'islamismo radicale e dei suoi strumenti armati. Il Mali, dove si dice sia trattenuta Rossella Urru, dista 4-5 ore di camion. La zona, insomma, in termini culturali e di fatto è la stessa. E qui, insomma, ci siamo a fare i conti ancora una volta con questa complessità dei rapporti tra le nazioni europee, un'Europa che viene invocata spesso e che in alcuni momenti, come appare in questa vicenda, in realtà resta ancora tutta da costruire. Ecco, chi ha invocato con una certa frequenza anche l'intervento dell'Europa in questi giorni sono stati d'altra parte proprio gli europarlamentari italiani in riferimento alla vicenda dei Marò trattenuti in India da una quindicina di giorni. Allora, cominciamo il riepilogo dei fatti dal servizio che vi facciamo sentire. Una lunga telefonata del premier Mario Monti per trattare direttamente con il premier indiano Singh nel tentativo di risolvere la questione dei due Marò accusati dell'omicidio dei pescatori indiani, durante la quale Monti si è trovato d'accordo con l'omologo indiano nell'evitare tensioni tra i due paesi ed entrambi hanno espresso l'intenzione di rimanere in stretto contatto sino alla soluzione della vicenda. Ma è stata anche l'occasione per Monti di ricordare che il presunto incidente è avvenuto in acque internazionali e che la giurisdizione sul caso è di conseguenza solo italiana. Il rischio per Monti è di creare un pericoloso precedente in materia di missioni internazionali di pace e di contrasto alla pirateria, preoccupazione condivisa da Singh, che si è impegnato al trasferimento dei due Marò dalla prigione in un luogo adeguato. Il governo indiano infatti aveva fatto sapere di non riconoscere l'immunità legale ai militari impiegati a bordo delle navi con funzioni antipirateria, posizione smentita anche dallo stesso ministro degli esteri Giulio Terzi. Abbiamo condiviso l'esigenza di affermare sul piano internazionale il principio dell'immunità dei peacekeepers che operano nel quadro delle risoluzioni dell'ONU. E su richiesta dell'Italia l'Unione Europea si è attivata intanto con un'azione diplomatica per trovare una soluzione soddisfacente. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Carlo Fidanza, europarlamentare del PDL, chiede più Europa anche durante la trasmissione del mattino condotta da Alessandro Milan e lo sentiamo. Noi riteniamo che l'Unione Europea e segnatamente l'alto rappresentante per la politica estera, la baronessa Ashton, debbano prendere una posizione più netta a fianco della diplomazia italiana per sostenere la richiesta legittima secondo il diritto internazionale di vedere giudicati i due Marò italiani secondo le leggi della giustizia italiana. C'è già stata da parte dei due vicepresidenti italiani del Parlamento una lettera al presidente del Parlamento Schulz, il sottoscritto e altri colleghi abbiamo presentato una interrogazione alla baronessa Ashton per chiedere a che punto è l'impegno dei suoi uffici e di lei stessa su questa vicenda. Continueremo con un'azione di questo genere nella speranza che questo possa sollecitare l'Unione Europea nella figura dell'Ashton a prendere una posizione più netta. Intanto dall'India viene ribadita quella che è la posizione del governo indiano. Proprio ieri il ministro degli esteri Krishna ha spiegato che il processo a carico dei due Marò italiani è una questione di legge del nostro paese ed ha aggiunto che la sua speranza e l'auspicio che i giudici trovino una soluzione rapida a questo problema. Così l'agenzia PTI, agenzia indiana su questa materia. E infine abbiamo detto qualche minuto fa di come queste due questioni, appunto Nigeria da una parte e Marò dall'altra, crei una forte tensione. Ieri l'ex ministro degli interni Maroni ha chiesto esplicitamente le dimissioni del ministro degli esteri del governo Monti. Terzi dice è Terzi che si deve dimettere, non Andrea Riccardi. Le dimissioni non si devono dare per uno sfogo, ma per la gestione della vicenda, appunto, Marò e Nigeria. Terzi lo dovrebbe proprio fare. Così ha parlato ieri l'ex ministro degli interni della Lega, Roberto Maroni. Punto e a capo. Abbiamo rifiutato di partecipare ad un incontro che a causa degli altri partiti avrebbe non parlato al popolo ma avrebbe parlato del palazzo. E al palazzo noi dobbiamo sforzarci di continuare a parlare al popolo. E lo dico con grande concretezza. Ecco dunque Angelino Alfano, segretario del PDL, introduce il tema che andiamo ad affrontare tra qualche minuto, dopo qualche momento di pausa, una settimana politica che ha registrato la prima vera divisione plateale esplicita in quegli incontri di metà settimana che il primo ministro Monti organizza con la sua coalizione, appunto con PDL, PD e i centristi. Punto e a capo. Eccoci qua ancora insieme con Gigi Donelli al microfono, Pietro Lacorte in regia per il nostro consueto appuntamento con la settimana raccontata alla radio. Abbiamo visto come, abbiamo sentito, anzi come politica internazionale ed estera si siano incrociate, confuse anche nei rispettivi piani, e ripartiamo dunque dalla politica in senso stretto, dal no del PDL all'incontro di metà settimana con il Premier Monti. Sentiamo. Io non ci andrò perché mi pare di capire che lì si voglia parlare di RAI e di giustizia. Di RAI e giustizia il PDL proprio non vuol parlare. È stato chiaro il segretario Angelino Alfano che si è chiamato fuori dal vertice previsto per ieri sera. La nostra priorità è l'economia, ha spiegato Alfano, rassicurando però sul fatto che resta fuori di dubbio l'appoggio al governo Monti. Noi non mettiamo in dubbio la fiducia al governo. Un'irritazione che nasce dal vertice di martedì sera tra il ministro della giustizia Severino con Bersani e Casini. Assente il PDL, al partito di Berlusconi proprio non è andato giù, così il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi. C'è un luogo deputato a questo, si chiama Parlamento, siamo preoccupati quando vediamo alleanze politiche trasversali tra Casini e Bersani riguardo ad altri temi. Ma Monti minimizza, sono problemi loro, il sostegno dei partiti cede, è convinto, il Premier annulla l'incontro che viene rimandato alla prossima settimana, mentre il ministro della giustizia Severino si dice stupito, quello con Bersani e Casini è stato un incontro breve e casuale e Alfano era informato. Una giornata di forfè, quella di ieri. Salta infatti anche la partecipazione di Berlusconi a Porta. A rinunciare è lo stesso ex premier per non delegittimare, dice il segretario Alfano. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tutto questo accadeva martedì, dunque, all'inizio di questa settimana. Se Monti minimizza, non hanno invece minimizzato i senatori del PDL, che hanno invece indirizzato una lettera al capogruppo e vice capogruppo del PDL a Palazzo Madama per chiedere di sfiduciare il ministro della cooperazione Andrea Riccardi, reo di essere stato colto da alcuni cronisti a parlare di schifo per la politica, dopo appunto lo stop al vertice di maggioranza arrivato dal segretario PDL Alfano. Il deputato invece del PDL Giorgio Straguadagno, intervistato ospite alla Zanzara, riafferma proprio la posizione di questo gruppo di senatori. Se ne deve andare, sentiamolo. Ma deve dire che ha detto una fesseria. Deve riconoscere che ha detto una fesseria. Non lo ha fatto, ha detto una frase estrapolata dal contesto. Siccome mi dicono che il contesto fosse peggio del testo, cioè deve dire che erano là, deve dire pubblicamente ho detto una cazzata. Ho detto una cazzata e ho sbagliato il mio giudizio. Cioè questa mi pare arroganza. Se il suo giudizio è che la politica che lo legittima un ministro è schifoso, lui è uno schifoso di riflesso. Allora, se gli piace essere schifoso o ha uno scarso considerazione di sé, si dimetta, cioè non faccia il ministro. Questa è la posizione rappresentata da Straguadagno e sottoscritta da un gruppo abbastanza numeroso di senatori. Nelle stesse ore Riccardi, diciamo, abbozza e blandisce, si può dire, il Senato. Sentite. Ora quando vado a Roma prenderò visione di questa lettera con molta attenzione, perché tutto quello che viene dal Senato della Repubblica nello spirito di questo governo è molto importante. Noi abbiamo un grande rispetto per l'attività parlamentare, per i parlamentari. Io stesso nella mia attività breve di ministro mi sono molto confrontato anche in parecchi incontri diretti sui temi della cooperazione, dell'integrazione e altri temi con deputati e senatori, quindi un'opinione la prenderò con grande attenzione. Cosa dite? Era giusto dire Riccardi blandisce al Senato? Insomma, sicuramente come dire, cerca di uscire da una polemica che davvero sembra inconsistente, tant'è che ieri poi è lo stesso segretario PDL Alfano a dire no, nessuna sfiducia a Riccardi, ho sentito anche Monti, caso chiuso, ma spero, dice, che non regali un bis, per me no problem, con lui un caso chiuso. E tutto questo lo scrive Angelino Alfano sulla sua pagina Facebook. Punto e a capo. Restiamo alla politica, ma in realtà entriamo nella giudiziaria. Infatti sono indagini all'ombra del Pirellone, una vera e propria saga ormai, dopo Penati, Ponzoni, Nicoli Cristiani. Ora è Davide Boni ad essere indagato. Avrebbe preso 1 milione di euro per il partito. Davide Boni, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, avrebbe ricevuto da alcuni imprenditori tangenti per girarle al suo partito, la Lega Nord. È su questa ipotesi che si stanno muovendo i magistrati della Procura di Milano, che ieri hanno perquisito la casa e l'ufficio dell'ex assessore regionale all'edilizia e al territorio. Tra soldi versati e promessi, secondo gli inquirenti, si arriverebbe a oltre 1 milione di euro che l'esponente leghista non avrebbe trattenuto per sé, ma fatto confluire nelle casse del partito, che, questo è il sospetto, avrebbe messo in piedi un sistema per raccogliere denaro tutto versato in contanti. L'accusa nei confronti di Boni è di corruzione, stesso reato contestato anche al capo della sua segreteria Dario Ghezzi, agli imprenditori Luigi Zunino, ex numero uno di risanamento, e Francesco Monastero, e ad altre 4 persone già chiamate in causa in una inchiesta sulle modifiche al piano regolatore del comune di Cassano d'Adda. Gli imprenditori avrebbero pagato l'ex assessore regionale tra il 2008 e il 2010 per accelerare pratiche e rimuovere ostacoli all'approvazione di alcuni lavori su aree commerciali nell'interland milanese. Flavia Carletti, da Radio Corte, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Reazioni dalla Lega. Cominciamo a sentire l'eurodeputato Matteo Salvini, ospite di Alessandro Milano 24 Mattino. C'è un'indagine, quindi rispettiamo l'indagine. Conoscendo le persone coinvolte, conto che sapranno dimostrare l'infondatezza delle accuse. Detto questo, chi sbaglia, sbaglia a titolo personale, non a nome e per conto del partito. Chi è membro della Lega, soprattutto per rispetto delle migliaia e migliaia di militanti, dei segretari di sezione, degli elettori, deve essere al di sopra di ogni sospetto. Il giorno successivo invece Raffaella Calandra ha sentito il vicepresidente leghista della regione Lombardia, Andrea Gibelli. La Lega si attende da Boni delle risposte come lui ha annunciato. Attendiamo delle informazioni utili per prendere una decisione serenamente, guardando la questione con severità, vista comunque il livello dell'accusa, ma consapevoli che ci sono stati tutta una serie di coincidenze. Anche il presidente Formigoni però gli ha ricordato che gli altri colleghi del Consiglio che erano stati coinvolti in vicende giudiziarie avevano fatto una certa scelta rispetto ai loro incarichi, cioè dimettendosi. Questo è avvenuto tempi molto più diluiti, alla Lega lo si sta chiedendo in poche ore. Effetto Boni sulla Lega nel partito, che peraltro a inizio settimana aveva fatto registrare la sparata di Bossi su Monti, sparata non vuole essere un gioco di parole, aveva parlato del rischio per Monti di appunto di essere ucciso qui al nord, insomma una sparata che era stata accolta con freddezza, anche imbarazzo all'interno della stessa Lega, ma insomma si vive una settimana complessa. Allora la nostra Cristina Carpinelli è andata a sentire, ha anche raccolto il dibattito, che naturalmente viaggia anche attraverso le radio, per sentire come il popolo leghista vive questa fase molto complessa per il partito. La Lega deve chiarire qual è la situazione all'interno del partito. Davide Boni, presidente del Consiglio regionale lombardo indagato per corruzione, deve andare dai leghisti a spiegare cos'è accaduto. E questo è il pensiero della base della Lega Nord dopo la notizia dell'indagine aperta per corruzione nei confronti del presidente del Consiglio regionale lombardo Boni. Come se ne esce da questa situazione? Faccia venire Davide Boni alla radio, fatelo venire alla radio, lui e il suo portavoce. Ascolta, a me dispiace dirlo, ma io è da tempo che lo dico da questa radio, da quando tutti si scagliavano, Cosentino, e io dicevo attenzione, perché oggi tocca a loro, domani ci può toccare a noi. La Lega, raccontano i leghisti nei forum, non è in un bel periodo. Da una parte la rottura con il PDL, che però è vista bene dalla base del Nord, dall'altra le inchieste giudiziarie, che danno una fotografia non tanto limpida del partito. Bisogna riformarlo il partito, rompere le righe, suggeriscono i più attivi. Gli altri si guardano le spalle dai nemici e si aggrappano ai consensi. Ci racconta così Attilio Snack, presidente della provincia di Vicenza. E io ho le sensazioni che il mio territorio crede in noi, crede nella Lega, e su questo abbiamo quello che poi a livello nazionale diventa sopra il 10%. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Abbiamo parlato dunque della coalizione, abbiamo parlato dei problemi della Lega e parliamo anche di quelli del PD. Il Partito Democratico ormai fa i conti con l'effetto Palermo, ma che poi è stato effetto Genova, insomma quasi un vero e proprio tormentone, anche cavalcato parecchio da alcuni comici, insomma a parte Fassino a Torino, il candidato PD alle primarie del partito è destinato a perdere e si parla di dimissioni del segretario Bersani. Tra gli ospiti che hanno partecipato al dibattito su questo tema qui a Radio 24 abbiamo avuto tra gli altri il senatore Beppe Lumia, che è stato sostenitore di Fabrizio Ferrandelli, dunque il vincitore delle primarie. Allora sentiamo il suo intervento, era ancora lunedì, quindi inizio di settimana, il tema era ancora piuttosto fresco. Adesso, dicevo, coralmente tutti dobbiamo rispettare e sostenere Fabrizio Ferrandelli. Fabrizio Ferrandelli ha una capacità espansiva notevolissima. Quanti lo conoscono lo sostengono, perché parla di progetto, parla della metropolitana di Palermo, parla del porto di Palermo, parla dell'energia rinnovabile da immettere nella pubblica amministrazione, parla di risanamento ordinato dei quartieri, insomma delle idee moderne che fa valere nel rapporto con la città. E queste idee moderne, accanto all'unità del centrosinistra e all'apertura del centrosinistra, sì, a tutte le forze dell'innovazione, possono produrre un risultato che è quello di governare Palermo, di far diventare Fabrizio Ferrandelli sindaco di questa importante città. Questo per il sostegno a Ferrandelli, ma le conclusioni che dovrebbe trarre Bersani da questa vicenda invece per la sua posizione personale quali sono? Cioè si dovrebbe addirittura dimettere, secondo lei? Guardi, i segretari nazionali che hanno sbagliato questa scelta devono riflettere e fare il bene del partito e assumersi la responsabilità migliore che comporta una scelta sbagliata che hanno fatto a Palermo. Chi sta a Palermo fa politica sul territorio, chi sta a Roma e sceglie dall'alto, chi gioca sulle alchimie delle elezioni utilizzando Palermo come uno scacchiere caduto dal letto stanotte dovrà fare i conti con questa stupenda candidatura. Così parla Lumia, insomma dà voce a un malessere che per quanto riguarda il PD sembra davvero concentrarsi nelle primarie, un meccanismo di scelta democratica, di condivisione, di partecipazione dell'elettorato ben prima del momento del voto, che però appunto in casa PD, che ormai segue questa strada in maniera regolare, in maniera ufficiale e formale, porta soprattutto dei grandi mal di pancia. Allora noi adesso ci fermiamo qualche momento, sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi ripartiamo da un altro luogo perché ci spostiamo negli Stati Uniti, ma continuiamo a parlare di primarie. Questa è stata infatti una settimana probabilmente decisiva per la definizione dello sfidante, di quello che sarà lo sfidante repubblicano alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del prossimo autunno. Punto e a capo. Un Ultimi minuti di questo nostro appuntamento settimanale con Punto a Capo. Ci siamo lasciati dalle parti di Palermo e, come vi ho anticipato, ci spostiamo invece negli Stati Uniti, dove, peraltro, differenza non trascurabile, il partito, i partiti, in questo caso il Partito Repubblicano, non indica nessuno dei candidati. Il 6 marzo scorso, martedì, è stato il cosiddetto Big Tuesday, il grande martedì, che in realtà è un po' meno grande rispetto agli anni passati. Comunque 10 stati al voto per definire lo sfidante a Barack Obama nelle elezioni di autunno. Romney esce a testa alta da questo confronto del super martedì, riesce ad imporsi con 5 stati: Vermont, Virginia, Massachusetts, Idaho e Ohio, appunto lo stato di certo più importante. Santorum, anche lui esce a testa alta, vince in 3 stati: l'Oklahoma, il Tennessee, il North Dakota. Gingrich alla fine ha vinto soltanto la Georgia, il suo stato. Conteggio complessivo degli stati da quando sono partite queste primarie dopo il Super Tuesday: Romney 13 stati, Santorum 7, Gingrich 2. Romney ha circa 359 delegati, Santorum circa 130, Gingrich 109, Paul 58. Beh, siamo ben lontani dalla soglia di 1144 necessari per assicurarsi la nomination. Però ricordiamolo, siamo ancora a metà del guado, siamo ancora in mezzo a queste primarie. Per Romney c'è stato davvero un momento di grande imbarazzo, perché pensate, ha speso 4 volte quello che ha speso Santorum in Tennessee, in Ohio, 3 volte in Oklahoma e così via. Eppure ha perso, per esempio, in Tennessee, ha perso in Oklahoma e se l'è vista davvero molto brutta in Ohio. È stato soltanto sul finale che è riuscito a recuperare, grazie al voto di grandi centri urbani, che per qualche ragione è giunto solo molto tardi. Ecco, è un campanello d'allarme, l'ennesimo per Mitt Romney, che non riesce ad imporsi come vorrebbe. Molti lo attaccano, dicono che non riesce a fare presa sulla destra, che non riesce ad emergere come il candidato di punta. In realtà questa è una corsa difficile e molte corse per le primarie sono state difficili. In questo periodo, 4 anni fa, Barack Obama combatteva ancora contro Hillary Clinton, non si sapeva come sarebbe andata a finire, è durata ancora poi alcuni mesi e dunque io direi che non si possono, secondo me, fare delle imputazioni particolari o particolarmente dure e severe contro Mitt Romney. Sta combattendo la sua battaglia, ha il vantaggio dell'organizzazione dalla sua parte, si ritrova con dei candidati tenaci come Rick Santorum e come Newt Gingrich, sta facendo la sua parte. Io credo che alla fine riuscirà a conquistare la nomination repubblicana senza troppi problemi. E questo l'avete riconosciuto, era Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Da New York ci ha raccontato questa nuova importante puntata della corsa alla candidatura repubblicana. Chi invece a inizio settimana si è assicurato non tanto la candidatura ma addirittura la presidenza della Federazione Russa per la terza volta nella sua vita politica, che in fondo è ancora relativamente giovane per gli standard almeno del suo paese, mi riferisco a Vladimir Putin, che a maggio tornerà al Cremlino. Lo ricordo, Putin è attualmente primo ministro russo del presidente Medvedev, ma torna dunque da presidente dopo elezioni che sono state contestate fortemente, elezioni che ancora oggi stesso portano in piazza come coda proteste nella via Arbat, la storica via degli intellettuali, poi di fatto oggi il centro pedonale e del passeggio di Mosca. L'opposizione si misura, Putin rassicura e dice: sarò presidente super partes. Per quanto riguarda i brogli, ha spiegato subito dopo la proclamazione della vittoria, al massimo riguardano l'1% dei voti. Punto e a capo. E dalla Russia torniamo in Italia. Dopo 11 anni, accadeva martedì, dunque nel giorno del Super Tuesday e nel giorno di fatto della proclamazione dei risultati a Mosca, dicevo, dopo 11 anni di attesa per le autorizzazioni, British Gas ha deciso di abbandonare il progetto del rigassificatore di Brindisi, la D della compagnia British Gas Italia, dunque della filiale italiana di British Gas. Luca Manzella ha annunciato la decisione proprio sul Sole 24 Ore e noi lo abbiamo sentito. Abbiamo deciso di mollare le attività locali di sviluppo, diciamo le attività operative. In questo momento quello che possiamo dire è che in questo momento il rigassificatore per la British Gas è un progetto che è sostanzialmente in fase di rivalutazione. Diciamo che più ormai è passato troppo tempo, sono passati più di 12 anni da quando la British Gas ha in qualche modo iniziato le attività di progetto. Chiaramente dopo 12 anni e non avere un progetto che è totalmente fermo, su cui nonostante abbiamo investito più di 250 milioni di euro, chiaramente in questo momento la nostra attenzione, l'attenzione del gruppo si focalizza su altre priorità. Il progetto, come diciamo, ormai è in stallo e per noi è un progetto che sicuramente finisce al fondo della lista delle priorità per il gruppo BG nel mondo. Questo è. In conclusione, questa è stata la settimana dell'8 marzo, delle mimose di cui noi vi parliamo a modo nostro, anzi al modo che sta facendo da settimane la nostra Valentina Furlanetto. 1,5 milioni di tasse in meno e stiamo parlando solo di Milano. L'associazione Fioristi del capoluogo lombardo, in occasione della festa della donna, oltre che preparare le mimose, ha preparato due conti e ha stimato in 500.000 i mazzetti abusivi di mimose che ogni anno vengono venduti in città l'8 di marzo, il che vuol dire appunto un mancato introito fiscale di 1,5 milioni di euro, tutta IVA non pagata. Così la presidente dell'associazione, guarda caso una donna, ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco, facendogli notare che l'abusivismo procura un danno ai concorrenti onesti, ma anche alle casse dello Stato. Un'iniziativa simile è stata presa anche dai rappresentanti dei fiorai a Torino, i quali spiegano che anche a causa delle mimose selvagge, il 20% dei negozi di fiori ha chiuso negli ultimi anni. Certo, mimosa o non mimosa, questo è anche il paese dove i titolari di un negozio di fiori, dove magari si arriva a pagare una rosa anche 10 euro, poi dichiarano in media appena 12.000 euro lordi l'anno, neanche 1.000 euro al mese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pietro Lacorte in regia, Gigi Donelli al microfono. Abbiamo concluso ora GR24, l'appuntamento con l'Europa e Federico Taddia. Punto a capo torna come sempre sabato prossimo a partire dalle 9:15. Buon fine settimana a tutti voi.